Avventurieri, dovete sapere che i venti sono portatori di saggezza. Per secoli hanno permesso agli antichi fondatori di comunicare con i loro discendenti. E voi, viaggiatori, avete uno strumento per ascoltarli. Controllate il vostro inventario.